24. La storia. Un mito senza tempo che ha attraversato la strada del nostro paese, che in parte ne ha anche scritto il costume. Da Vacanze romane con Audrey Hepburn a Caro diario con Nanni Moretti. Dal cinema alla televisione, un mito lungo mezzo secolo e più che ancora oggi in diverse versioni con diverse carrozzerie viaggia allegramente nelle città, raggiunge le spiagge, si parcheggia fuori dalle discoteche. Un mito su due ruote. E la Vespa, una storia di tutti noi. È un'Italia distrutta, quella che esce dalla Seconda Guerra Mondiale. Le città sono un cumulo di macerie. La guerra si è presa tutto, lasciando dietro di sé una popolazione alla paralisi. Mancano i generi di prima necessità, manca il lavoro, regna la povertà. L'economia è nelle mani del mercato nero. Ma con l'incubo dell'incursione aerea ormai alle spalle, la gente può ricominciare a pensare al futuro. E nelle capitali di tutta Europa si lavora intensamente a ripristinare le vie di comunicazione. Si riparte da nuovi aeroporti e dal rilancio dell'aviazione civile. La Piaggio, già attiva nel settore navale e ferroviario, entra in quello aeronautico all'inizio del Novecento, intuendo le potenzialità di questo nuovo ramo di trasporti. In Liguria e in Toscana gli stabilimenti Piaggio rispondono prontamente alla domanda del mercato bellico con la progettazione di velivoli come il P-108, un quadrimotore di 26 metri di apertura alare, e la costruzione di potenti motori stellari. Ma se la guerra spinge a un forte sviluppo industriale, dall'altro lato fabbriche e stabilimenti diventano obiettivi primari dei bombardamenti nemici. Alla fine della guerra, soprattutto negli stabilimenti toscani, c'è un cumulo di macerie. Enrico Piaggio si trova uno stabilimento distrutto, con una caduta di occupazione che passa da 10.000 operai prima della guerra a 60 operai nel 1945, quindi la completa distruzione di quelli che sono non soltanto gli prodotti ma anche gli impianti, e questo è tragicamente importante per chi fa impresa. Era la voce di Tommaso Fanfani, ex presidente della Fondazione Piaggio. Alla fine della guerra, oltre la metà delle strade e dei ponti del nostro paese è impraticabile. Il problema della mobilità appare subito come uno dei più pressanti per rimettere in moto l'economia, non solo sul piano nazionale, ma anche su quello locale. Si ripristinano le linee tranviarie e i servizi pubblici urbani per dare alla gente la possibilità di tornare al lavoro. L'industria lamenta l'assoluta mancanza di materie prime e per ripartire si attinge dai rottami degli aerei militari smembrati. Le istituzioni internazionali e gli Stati Uniti organizzano aiuti ai paesi devastati dalla guerra. E un po' alla volta il paese si rimette in marcia, pedalando in bicicletta o, i più fortunati, in sella a una moto. Ma la grande massa soffre della mancanza di mezzi di trasporto a buon mercato e di un sistema pubblico che appare ancora del tutto insufficiente. È in questo quadro sociale che Enrico Piaggio matura la sua idea di lanciare un prodotto del tutto nuovo. Di riflessi e di splendore. Enrico Piaggio, classe 1905, nasce a Genova. Alla morte del padre Rinaldo nel 1938 eredita insieme al fratello Armando la Piaggio, azienda nata a Sestri Ponente e specializzata nell'arredamento navale. Nel 1924 l'avvio nello stabilimento a Pontedera per costruire motori aeronautici. La Seconda Guerra Mondiale, come per molti imprenditori italiani, segna la distruzione di quasi tutti gli stabilimenti e il blocco totale della produzione. Dal sogno fuggì, dolce amore. È nell'immediato dopoguerra quando si apre una pagina completamente diversa. Ed è proprio a Pontedera che si abbandonano i progetti e le produzioni aeronautiche per imboccare con coraggio e decisione la costruzione di un nuovo modello di scooter. Io vivo sol per te, amore. Enrico Piaggio, quando cambia completamente la produzione dagli aerei di 26 metri di apertura alare a un veicolo che è poco più di un metro sostanzialmente, un metro e mezzo, è chiaro che fa una scelta imprenditoriale profonda. Sostiene che sia necessario contribuire per un imprenditore, contribuire a che il paese possa tornare alla normalità, contribuire a questa ricostruzione in senso sociale oltre che in senso economico, quindi andare oltre quelle che sono le finalità produttive dell'impresa. Con la storia della Vespa continuiamo dopo la viabilità. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 e al racconto della nascita di un mito, la Vespa. Per la realizzazione di questo nuovo prodotto, Enrico Piaggio si affida a uno dei suoi uomini migliori, l'ingegnere Corradino D'Ascanio, geniale progettista aeronautico che nel 1930 aveva fatto volare il primo elicottero italiano, come lui stesso racconta in una rara intervista. Le mie esperienze aeronautiche rimontano già quando ero bambino, che mi dilettavo di fare modelli, eccetera. Siccome tutta l'aviazione, l'industria aeronautica languiva, io pensai che la cosa importante era realizzare l'elicottero a cui avevo pensato sempre. Riuscii a fare questo elicottero. Questo elicottero, pilotato dal allora maggiore Nell, ha battuto i primi record mondiali di lunghezza, durata e distanza. L'elicottero di D'Ascanio volò per quasi 9 minuti, raggiungendo l'altezza di 18 metri e una distanza di poco meno di 2 chilometri. Il volo è la grande passione di D'Ascanio. Nel 1931 inventa l'elica a passo variabile, un'innovazione straordinaria nella tecnologia aeronautica. Ma la sua genialità inventiva non ha confini. Appena passato il cataclisma della guerra, il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti, e naturalmente io all'idea di progettare un oggetto nuovo e mi sono entusiasmato moltissimo. Era un inventore di tutto. Quando mi sono rotta il braccio destro, quindi non potevo scrivere, lui mi ha fatto un carrello di legno con le ruote per spostare il gomito e una molla che teneva una penna con la quale potevo scrivere, quindi io speravo di non andare a scuola per un po' di tempo, invece potevo fare tutto tranquillamente. E c'aveva questa familiarità con i giochi di prestigio. Poi lui suonava il violino, ricamava, faceva l'uncinetto, faceva tutta una serie di cose per tenere le mani in moto. E la funzionalità era una delle cose principali. Lui, se c'aveva da risolvere un problema, trovare una soluzione, la soluzione doveva essere prima funzionale, poi estetica. Avete appena sentito le voci delle nipoti di Corradino D'Ascanio. E infatti, come lui stesso racconta, il progetto della Vespa nasce partendo dall'uomo e dall'idea di farlo sedere comodamente. Ho messo un parafango dal sedile che copre la ruota. Ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. La Vespa di D'Ascanio è preceduta in realtà da un curioso prototipo progettato dall'ingegner Spolti all'interno della stessa Piaggio negli ultimi mesi di guerra e battezzato scherzosamente Paperino dagli operai che lo hanno costruito. Enrico Piaggio resta colpito dall'idea di quella piccola moto carenata, ma non ne apprezza le linee e invita l'ingegner D'Ascanio a sviluppare il progetto. In breve tempo, D'Ascanio disegna un veicolo dalle forme semplici e tondeggianti, con delle caratteristiche tecniche a dir poco rivoluzionarie non solo rispetto al Paperino, ma a tutta la produzione motociclistica realizzata fino ad allora. D'Ascanio si avvale della sua esperienza aeronautica, ma certe scelte sono dettate dalla sua convinzione che le motociclette siano un mezzo scomodo e sporchevole. L'MP6, questo è il nome tecnico del nuovo veicolo, non è una moto carenata, ma uno scooter con una carrozzeria autoportante. Ha il cambio al manubrio, il motore collegato direttamente alla ruota posteriore, le ruote a sbalzo. Il progetto convince in pieno Enrico Piaggio che quando vede la prima realizzazione, un po' per la forma, un po' per il rumore, esclama «Sembra una Vespa», conferendole per sempre il nome. Nell'aprile del 1946 la presenta sul mercato. Avendo messo in vendita i primi 50 veicoli, i primi 50 pezzi, 48 vengono venduti immediatamente, due vi rimangono sostanzialmente invenduti. Nonostante questo, decide di mettere in produzione 2500 pezzi circa. E l'intuizione di Enrico Piaggio si rivela giusta. Nell'arco di pochi mesi il piccolo scooter nato dall'industria aeronautica decolla. Altri scooter si erano già affacciati sulla scena in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma nessuno aveva raggiunto neanche lontanamente i risultati della Vespa. Gli stabilimenti di Pontedera lavorano a pieno ritmo e nel 1953 viene presentata la Vespa numero 500.000. Tre anni dopo, nel 1956, a 10 anni dalla sua nascita, si festeggia la milionesima Vespa. Numeri fatti in Europa, cioè era un imprenditore che aveva una visione mondiale del problema. Ricordo che nel 61 Piaggio aveva già 6 stabilimenti all'estero, cioè quindi l'Europa era stata invasa, possiamo dire, da questo prodotto immediatamente. Esistevano stabilimenti di produzione in Spagna, in Francia, in Belgio, in Inghilterra, in Germania e poi fuori Europa, in Brasile, negli anni subito successivi in India. Era la voce di Tullio Boggia alla guida dell'agenzia pubblicitaria Leader. Come Piaggio aveva voluto, la Vespa è diventata il veicolo alla portata di tutti. Si usa per andare al lavoro e grazie alla carrozzeria che protegge le gambe e nasconde il motore, non sporca nemmeno quando si viaggia su strade sterrate. Se l'automobile è ancora un privilegio per pochi, la Vespa è il più diffuso veicolo per la famiglia degli anni 50. Ascoltiamo un appassionato vespista e poi lo scrittore Antonio Tabucchi, che ci regalano il loro ricordo della loro Vespa. Era la primavera del 48 e mio padre venne su in casa con la notizia, che a me fece felice, di aver comprato una Vespa. E io me la godevo perché ero in piedi davanti a lui, col manubrio tra le mani, quindi mi sentivo pilota. E il vento nei capelli. Io ricordo degli omini che passavano con una Vespa a cui era attaccato un carrozzino, vendevano alcune cose. In questa zona si mangiava molto, erano picchie, c'era un omino che li vendeva e passava vendendo le ranocchie su un furgoncino attaccato alla Vespa. Va, va, bacini piccina con la bocca piccolina, vieni tam tam tam, ti baci in quantità. Lo scooter Piaggio diventa rapidamente simbolo di libertà. Entra nella vita della gente senza distinzione di classe o di età. Diventa protagonista anche dei fumetti, disegnato da un giovanissimo Iacovitti. Ma è soprattutto il cinema a decretarne il successo come prodotto di uno stile italiano riconosciuto e affermato ormai in tutto il mondo. Venga, papà, facciamo presto. Se vuoi farti un bagno c'è sempre la dinozza, no? Babbo, vieni, babbo, babbo, babbo, oddio, oddio, ho sorpreso il babbo. Da Mi permette Babbo, con Aldo Fabrizi e Alberto Sordi, a Vacanze romane, con la famosa scena in Vespa di Gregory Peck e Audrey Hepburn. Ascoltiamo ancora Tullio Boggia e poi il regista Luciano Emmer. Importantissimo è stato l'utilizzo del cinema, diciamo, del cinema nei film veri e propri, per diffondere l'immagine di Vespa, un po' spingendola da parte di Piaggio attraverso un'agenzia che aveva a Roma che si occupava di questo lavoro, un po' veniva proprio richiesto, specie dai registi americani, come veicolo tipicamente italiano. Vacanze romane ne è un esempio tipico, dove Luciano Emmer girò tutta la parte italiana utilizzando la Vespa, è veramente come fosse un mega film pubblicitario di Vespa. Ma come divertente! Guiderò io! Io ho girato tutti gli esterni di Vacanze romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck, che avevano un contratto che non potevano montare sulla Vespa, la Vespa doveva essere senza ruote, messa su un camion, quindi invece io li ho fatti salire sulla Vespa e fatti andare sulla Vespa a rischio e pericolo di procurarmi una denuncia penale. Sul finire degli anni 50 l'economia è ormai in crescita, la possibilità di fare acquisti a rate porta nelle case della gente gli strumenti del nuovo benessere. Sono anni di boom, di conquista di nuovi diritti, di espansione del mondo del lavoro, ma anche dei primi duri confronti all'interno delle fabbriche. Il decennio successivo si aprirà con una flessione delle vendite della Vespa. Da poco è arrivata sul mercato un'insospettabile concorrente, la prima utilitaria a quattro ruote. Sentiamo Tullio Boggia dell'agenzia pubblicitaria Leader. Il subentrare dell'automobile praticamente aveva spostato il target di Vespa sull'auto. Quindi Vespa era rimasta importante ancora per chi non poteva permettersi l'auto, ma avrebbe avuto comunque i giorni contati. Piaggio prese la decisione coraggiosa di puntare sui giovani. A questo punto il modo per far ringiovanire il prodotto era sì la comunicazione, ma anche alcuni interventi sul prodotto. Il più importante fu, se può sembrare strano, quello effettuato sul colore. Sino a quell'epoca la Vespa era stata grigia, grigio verde, grigio più chiaro, grigio più scuro, voglio dire, tutti i possibili toni del grigio erano stati sperimentati. Prese il coraggio a due mani e cominciò a farla rossa, bianca, e ebbe una rispondenza immediata da parte del pubblico, cioè il prodotto effettivamente aveva cambiato faccia. Noi due soli sulla Vespa. Cambia il modo di presentare il prodotto, complice la televisione che incomincia a imporre il suo linguaggio. Si rinnovano i modelli, anche quelli più tradizionali e affermati come la GS. Ne escono di nuovi, più originali e grintosi come la 90 Super Sprint, oggi tra le più ricercate dai collezionisti. Nel 63 nasce la prima 50, che può essere guidata senza patente a partire da 14 anni. Tra i giovani è un grande successo. Vespa 50, senza targa, senza patente. Shame, shame, shame! Gianni Morandi ne è l'espressione televisiva totale, con il gruppo di ragazzi che lo segue sempre in Vespa. Questi caroselli ebbero un notevole successo e aiutarono la marca a uscire da quella che sembrava essere ormai irrimediabilmente una china negativa. X24, la storia. La prima comunicazione di Vespa nel 1946 è fatta con una donna che guida, che porta la Vespa, ed è una donna che lavora. 1946 è la prima volta che le donne votano in questo paese, quindi è un messaggio molto, come dire, che anticipa molto quella che è l'emancipazione femminile e quelli che sono appunto i valori che stanno dietro questo elemento dell'emancipazione stessa. Bentornati a MX24. In effetti, tra le indicazioni che Piaggio diede all'ingegner D'Ascagno in fase di progettazione c'era anche questa: doveva essere un veicolo adatto alle donne. D'Ascagno, che non amava le motociclette, non ebbe difficoltà a accontentarlo, ma in realtà per molti anni quello della donna alla guida della Vespa resta solo un target indiretto. L'uomo compra la Vespa perché piace a moglie e fidanzate, ma alla guida dello scooter e della Piaggio le donne restano a lungo soprattutto un'icona pubblicitaria. Fa due volte risparmia, questo certo lo otterrai, solo quando una Vespa lo otterrai, sopra i monti arriva il mare, tu con lei potrai arrivare, e lo scooter da comprare. Vespa, due volte economica. Poi arriva il 68 e tutto cambia, si acquisiscono nuovi valori, si contesta violentemente il passato, è una rivoluzione sociale che parte proprio dai giovani. Per la Vespa, che ormai calca le scene da oltre 20 anni, potrebbe essere la crisi fatale. Sentiamo Tullio Boggia dell'agenzia Leader e poi il semiologo Omar Calabrese. È un momento che per fare pubblicità non è facile individuare quelli che sono i filoni ai quali ancorare il messaggio per renderlo credibile a un pubblico di quel tipo. E qui devo dire l'agenzia di pubblicità del momento, la Leader, ha questo grosso colpo di fantasia, definiamolo così, e esce con questa campagna "Chi Vespa mangia le mele". ci risiamo. Vespa! Chi Vespa, come se il verbo fosse vespare, andare in Vespa, già era un'invenzione. Siccome si trattava poi dell'immagine di una mela morsa, richiamava il peccato originale di Adamo ed Eva senza colpevolezza, perché anzi con quella piccola allusione forse sessuale al sentimento dell'indipendenza e dell'anticonformismo. Poi dal punto di vista visivo fu scelto il New Dada, che era un po' lo stile degli hippie degli anni 60. La combinazione insomma ha dato luogo a qualcosa che potrebbe stare tranquillamente dentro una galleria d'arte oggi, ma anche all'epoca per l'altro. Di fatto la Vespa non solo non invecchia, ma la sua linea inconfondibile, disegnata in un giorno ormai lontano del dopoguerra, diventa negli anni un oggetto di culto che si presta alle più diverse interpretazioni estetiche. È l'esaltazione di un design sempre attuale che già aveva stimolato la creatività di grafici e pubblicitari fin dagli anni 40 e che oggi diventa espressione artistica. Alcune opere sono conservate al Museo Piaggio di Pontedera, come una gigantesca Pix concepita per un'esposizione internazionale, o una serie di Etty 4 realizzate nel 2001 giocando tra arte e design in un concorso indetto per celebrare lo scooter più famoso del mondo. Oui, j'avais une Vespa, un scooter. Quando ero adolescente avevo una Vespa, abitavo in montagna e per pagare la benzina andavo a raccogliere lumache nei giorni di pioggia. Poi le rivendevo e compravo la benzina per il mio scooter. Je revendais mes escargots pour mettre de l'essence dans mon scooter. A 18 anni ho venduto lo scooter e ho comprato la piccola vettura 400 Vespa. Petite voiture 400 Vespa. Abitavo nell'Alta Savoia ed era la prima 400 che si vedeva. È stata la rivoluzione. Tutti volevano salire su questa piccolissima automobile. E proprio grazie a lei ho conosciuto mio marito. Presenti in tutto il mondo, gli appassionati vespisti hanno i loro raduni, luoghi di ritrovo dei collezionisti e di quanti cercano gadget originali o rari pezzi di ricambio per rimettere insieme una vecchia Vespa. Diverse le esigenze e le manie dei collezionisti di ogni parte del mondo. A raccontarcelo Carlo Negro, fondatore di un negozio specializzato in ricambi d'epoca per la Vespa. L'italiano vuole la Vespa com'era, non taroccata, non la vuole com'era. Invece l'estero, più è strana per l'estero, meglio va. I tedeschi sono pazze. Sono matti, poi fuori di testa, perché loro tagliano le scocche, hanno fatto un motore a idrogeno anche, c'è una Vespa a idrogeno, una cosa che se scoppia è una bomba atomica. Questo prodotto deve alla sua formula probabilmente la sua fortuna, ma anche al fatto di essere stato curato da un punto di vista tecnologico sempre. Cioè la Vespa sembra sempre la stessa, ma la Vespa dal 46 al 70 non aveva più un pezzo in comune. Ricordo che facemmo un'indagine proprio con la direzione progetti per scoprire se c'era rimasto qualcosa e volutamente si volle trovare un qualcosa che era la chiave che bloccava il volano sull'albero motore. Un pezzetto di metallo di pochi millimetri, voglio dire, che definimmo il seme della Vespa, proprio per dare, voglio dire, una continuità a questo prodotto che l'aveva solo nelle linee ma che tecnicamente evolveva in continuazione. Ed è questo uno dei segreti della Vespa. Rinnovarsi continuamente negli anni senza darlo troppo a vedere. Intatte le linee estetiche essenziali ed eleganti, identico lo stile che l'ha distinta fin dal suo esordio, ma diversa la tecnica. Continuamente aggiornata, in 60 anni sono stati prodotti quasi 150 modelli di Vespa. Il modello PX, per soddisfare i fedelissimi, conserva il cambio a quattro marce sul manubrio e la posizione di guida della Vespa è ritenuta ancora la più ergonomica tra gli scooter. Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco. Luca Capocchiano, genovese, ingegnere meccanico, 36 anni, sta realizzando il suo sogno di compiere il giro del mondo a bordo di una Vespa d'epoca. Punto di partenza e arrivo, Genova. Ciao Luca. Ciao a tutti. Dove ti trovi? Da Singapore, ti ho anticipato. Quando sei partito? 5 ottobre dello scorso anno. E viaggi da solo? Viaggio da solo, il sogno, il progetto era proprio di fare un viaggio in solitaria. Come ti è venuto in mente di realizzare questa impresa? Questo è un po' più lungo da spiegare. 10 anni fa feci un po', diciamo non programmato, un piccolo viaggio in Vespa, uno Special 50 in Spagna. Ero arrivato a Barcellona in traghetto e in teoria avrei dovuto rimanere intorno a Barcellona. Mi ero portato dietro questa Vespa solo per avere un mezzo di trasporto, ma non era mia intenzione viaggiare. E poi? Poi per motivi insomma che erano nati in quell'estate lì mi trovai a spostarmi da prima a Valencia. E Barcellona-Valencia sono circa 400 chilometri e lì è nata la scintilla. Non avevo mai viaggiato in quella maniera lì, così piano, su un veicolo a due ruote, e mi innamorai. Cioè, qual era la sensazione che ti ha poi spinto addirittura a fare il viaggio del mondo? Era un modo nuovo di viaggiare. Io da ragazzo correvo in moto, ho sempre avuto moto veloci, per me le due ruote era andare in moto, era guardare i punti di staccata, le traiettorie, curvare più. Quindi la velocità che non supera gli 80 all'ora, giusto? All'epoca in quel viaggio là non superava i 50 all'ora. E adesso? Adesso non supero gli 80 all'ora, non ho incrementato di molto. Che tipo di Vespa è la tua? Il modello è TS125, la mia è del 1976. È una Vespa che è esteticamente anni 70 ed è stato il motivo per cui l'ho scelta, però meccanicamente un po' la più moderna tra le Vespe vecchie, passatemi questa contraddizione in termini. Ma come mai hai scelto proprio quella? Per questo motivo qua, io esteticamente il PX, diciamo che per me prima di tutto la Vespa è tutto quello che precede il PX, quello che viene dopo non è più Vespa, non ha le marce, non ha la plastica, non fa parte del concetto di Vespa. Il PX esteticamente non mi piace, il TS è il modello immediatamente precedente, quindi ha ancora l'estetica da Vespa d'epoca, da Vespa vintage, per usare un termine figo, però è meccanicamente un po' la più moderna, quindi quella che mi garantivo un po' più di affidabilità. E hai dovuto fare qualche modifica? Ho fatto delle modifiche che se tornassi indietro non farei. Perché? Perché ho modificato il gruppo termico, insomma il motore, l'ho maggiorato, ma non è più originale e questo mi ha messo in difficoltà nel momento in cui ho avuto dei problemi per reperire ricambi. Mentre la Vespa, io ora mi trovo a Singapore, così come prima ero in Laos, Cambogia, Thailandia, Nepal, India, è conosciuta dappertutto e più o meno ovunque si può trovare un ricambio. Con questo motore non riuscivi a trovarlo? No, perché è un motore. E come hai fatto? Fortunatamente una volta me ne sono fatti spedire dall'Italia e recentemente io lavoravo in Superbike e sono le corse delle moto, il mese scorso hanno corso in Thailandia. Sono andato a trovare degli amici e a uno di questi ho chiesto di portarmi un po' di ricambi, quindi diciamo che ho dovuto un po' utilizzare questi metodi. Avventura nell'avventura. La maggiore difficoltà che hai incontrato in questo viaggio? La burocrazia, che è una delle peggiori. Per esempio, ti hanno bloccato da qualche parte? Per esempio l'India, che è un paese folle sotto questo punto di vista, ci ho messo una settimana solo per avere il permesso di portare dentro la Vespa. In generale è molto differente viaggiare da soli come persona fisica col proprio passaporto, darsi appresso un mezzo, servono dei documenti ma alcuni paesi, in alcuni paesi ce la può cavare abbastanza facilmente, in altre è molto complicata. Luca Capocchiano, ma ci vuole una preparazione fisica per fare un viaggio in Vespa intorno al mondo? Direi di no, serve tanta determinazione, tanta voglia, quello sì. Come ti mantieni in quest'anno sabbatico che immagino che stai per fare questo viaggio? Sto usando i risparmi di 10 anni di lavoro. Posso chiederti quanto? Erano meno di 15.000 euro e non credo che mi basteranno, tra l'altro. Il problema vero sono i trasferimenti intercontinentali che per forza di cose devo fare via aereo o via nave. Io, per esempio, incrocio le dita, ma se tutto va bene lunedì prossimo spedisco via nave da Singapore a Darwin, nel nord dell'Australia. Sono 9 giorni di navigazione. In questo momento ti parlo da un couchsurfing. Che penso sappiate cos'è. Dormi sul divano di una casa di qualcuno. Di un ragazzo giapponese che lavora da 10 anni qua a Singapore. Singapore come Dubai, insomma, ho attraversato paesi in cui una camera d'albergo costa molto e non me lo posso permettere. Me lo posso permettere quando vado in vacanza con la mia ragazza, ma non in questo momento, e di conseguenza. E se finiscono i soldi, i tuoi amici ti verranno a prendere? Non lo so, chiediglielo a loro quello. Prossima tappa? Prossima tappa è Darwin, nord dell'Australia, e da lì la meta finale in Australia è Melbourne, da cui poi mi imbarcherò per Santiago del Cile. Quello in mezzo è tutto da disegnare. Probabilmente affronterò tutto l'outback e il deserto australiano per portare la Vespa davanti a Uluru, quel monolite gigantesco che è nel cuore del continente australe. L'alternativa sarebbe fare la Gold Coast, quella da Brisbane, diciamo, la costa sudorientale. Hai studiato molto prima di partire? Non tanto, sto studiando in corso, diciamo. Grazie Luca per averci fatto viaggiare con te la tua Vespa e buon viaggio. Grazie a voi e a presto. Ciao. Ciao. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 e al racconto della storia della Vespa. Oggi l'azienda Piaggio è quotata in borsa, l'attenzione verso il marchio è più alta che mai. Per conservare questo straordinario patrimonio della nostra storia che ha quasi 70 anni, accanto agli stabilimenti di Pontedera è stato creato un museo Piaggio. Il museo Piaggio, che è il luogo in cui sostanzialmente si conserva questa filosofia del veicolo e questi valori del veicolo, cerca di proporre non soltanto alla società esterna, ma cerca di proporre anche ai creativi, ai designer, quelli che sono appunto le possibilità di utilizzo, di sfruttamento di questa idea del 1946. Il merito del successo della Vespa, insomma, va certamente alla felice intuizione di chi l'ha creata, alla capacità imprenditoriale di chi l'ha diffusa nel mondo, ma anche a chi ha continuato a produrla senza mai snaturarla e senza tradirne i valori originali. La storia della Vespa è la storia di un mito nato pensando al futuro e diventato da collezione senza mai perdere d'attualità, continuando insomma a essere l'oggetto dei desideri anche oggi. Così il semiologo Omar Calabrese e lo scrittore Antonio Tabucchi. La Vespa ha fatto storia perché non ha colonizzato gli altri paesi. La Ford va benissimo per paesi non del livello economico degli Stati Uniti, perché è più familiare, più accessibile, però si importa un modello che è quello. È l'America portata altrove. E al contrario, la Vespa non è stata la Vespa portata altrove, è stata la Vespa che si è sposata con l'altrove, con gli altri, con un'immagine che probabilmente è anche coerente con lo spirito dell'Italia, tutto sommato. Io mi trovavo in India, precisamente nell'India del Sud, nel paese Tamil Nadu. Abbiamo trovato un passaggio a livello chiuso e a un certo punto è arrivato un uomo in scooter che si è affiancato alla nostra macchina e aveva sul suo portabagagli un pacco. Sembrava uno sfilatino molto grosso, avvolto in una tela. E allora io ho chiesto all'autista della mia automobile che cosa potesse essere. E lui con molta disinvoltura mi ha detto, ah, è un cadavere. E io ho detto, ah, è un cadavere. E perché lo porta lì? E lui dice, ma probabilmente lo porta a Kanchipuram perché ci sono le pire, è una città santa, e lì viene bruciato. Eravamo proprio accanto, erano due situazioni così diverse. Io un occidentale che in qualche modo per caso e per capriccio, se si vuole, mi trovavo lì, lui una persona che portava un cadavere a bruciare, forse un suo familiare, magari suo padre, chissà. E allora mi è venuta quella voglia di stabilire un minimo di contatto umano. E allora ho detto forse la cosa più banale e anche più stupida che uno può dire in quella situazione. L'ho guardato e gli ho detto, I am Italian, il che non ha suscitato in lui nessun tipo di reazione ovviamente. In quel momento si è aperto il passaggio a livello. Mentre stavamo partendo gli è scoccata una scintilla, aveva capito e ha indicato il suo scooter e ha detto Vespa, Vespa. Giulio Sapelli, professore di storia economica all'Università di Milano. La Vespa, da mezzo di trasporto semplice ed economico ad oggetto di culto. Ma è il contesto degli anni del dopoguerra che fa la differenza nel creare un'idea così vincente? Certamente, c'è il contesto. Qual era il contesto? Il contesto era l'arrivo della società affluente, era l'arrivo della società dei consumi. Però questa società dei consumi incontrava dinanzi a sé un oggetto di grande bellezza. Ma con Piaggio, anche con Olivetti, poi con Leni Di Mattei, siamo stati i primi al mondo. Cosa resta di quella creatività propria del boom economico? Beh, resta molto nei cromosomi dei nostri designer, nei cromosomi di alcuni piccoli e medi imprenditori, e certamente non resta più quello che fece il miracolo dell'epoca, che fu il rapporto tra tutti queste cose innovative, da questa genialità e la grande impresa. Oggi noi in questi anni, tra privatizzazioni fatte male, tra gestioni manageriali fallimentari, abbiamo distrutto la maggioranza delle grandi imprese italiane, e quindi questo legame tra creatività spontanea dal basso o intelligenza superiore che veniva, lei pensi all'IRI, la straordinaria rivista Civiltà delle macchine, direi che di questo intreccio virtuoso rimane solo Leni a rappresentarlo. E rimane la nostra creatività? Questa, diciamo, rimane, però bisogna stare attenti che non venga messo in pericolo. Troppi PowerPoint e troppi hard disk distruggono anche la creatività. Ma per essere creativi bisogna leggere dei libri, bisogna pensare. Ma oggi c'è un settore dove restiamo primi e creativi, appunto? Beh, sono le macchine utensili, sono gli stampisti, sono il design. Bisogna combattere l'idea che siamo primi nell'alimentazione, questa stupidaggine dell'Expo fatta sull'alimentazione che diffonde nel mondo l'Italia come pizza e mandolino. Noi siamo un grande paese industriale che mette la sua creatività a vantaggio dell'intreccio tra arte, intelligenza creativa e meccanica. Pensi a cosa potrebbe essere l'Italia se le stampanti 3D, cioè l'intreccio appunto tra creatività, tecnologia, information, ITC, no? Information sì. Technology, potesse pienamente dispiegarsi se avessimo una banda larga. Ecco, tutte cose, ecco, però non sono dove generalmente ce la cantano e se la suonano, ecco, non sono in cucina, sono ancora nelle fabbriche, sono ancora nell'industria. Ma vale ancora la regola del connubio innovazione e tradizione come arma vincente sul mercato? Beh, ma questo vale sempre. Così come non c'è progresso se non c'è intreccio tra generazioni, come diceva Peggy, cosa può una generazione nuova che si affaccia al mondo negando la vecchia è una generazione di miserabili. Così si può dire anche per quanto riguarda le arti meccaniche o le arti della creazione industriale. È solo reinventando continuamente la tradizione che si fa l'innovazione. Questa è una cosa vecchia come il mondo. È sempre quella. Professor Giulio Sapelli, ma per competere a livello globale oggi cosa ci manca sicuramente? Forse lo diceva niente, prima. Niente, ci va un po' meno finanza, ci va molta meno finanza, e ci va, e forse ci va una cosa che abbiamo distrutto, l'intervento pubblico in economia, la grande impresa statale che interveniva laddove la mano privata non interveniva, e poi ci va meno burocrazia e più libertà agli animal spirits degli imprenditori e dei nostri giovani. Poi ci vorrebbe soprattutto usare questo eufemismo, il merito, perché il merito senza l'inclusione non va nessuna parte. Bisogna smetterla con la raccomandazione e col far andare avanti i figli di papà. Grazie professore.